Son becchi al verchio chiedo e con casa sei sola sovente. Love me. Thank you. lontano nel nebuloso ciele una fanciulla pallida mesta lacermi il piede lento conduce di catene avvinto fai pietosa visione mi rassomiglia Oh!